America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The framework I've just described represents a once in a generation opportunity to reduce taxes, rebuild our economy and restore America's competitive edge. Finally. Donald Trump, comizio in Alabama, beh, è la sua proposta rivoluzionaria, ha detto, per un taglio fiscale. Lo avete sentito? Dice: il taglio fiscale più consistente in 80 anni. I più grandi vincitori, dice Trump, saranno i lavoratori della classe media, mentre i posti di lavoro cominceranno a riversarsi nel nostro paese, le aziende cominceranno a competere per il lavoro americano e gli stipendi continueranno a crescere. Insomma, beh, è come dire, il quadro che ci offre Donald Trump è più che roseo. Dobbiamo capire se riuscirà il presidente, devo dire, sempre pronto a fare il passo successivo, a trovare il compromesso per questa riforma. Compromesso non facile, credo che sarà inevitabile cercare un compromesso con i democratici, ma vedremo come andrà a finire. I mercati per ora hanno reagito bene, nel senso che se lo aspettavano da tempo non succedeva niente. A questo punto la nave, come si dice, ha lasciato il porto. Vediamo se arriverà a destinazione. Bene, seguiremo nei prossimi giorni la cronaca. Oggi vorrei parlarvi d'altro, di qualcosa di molto importante, molto interessante, che capiterà la settimana prossima. Sentiamo. The moral credibility of the church, people's relationship to God at times has been damaged by this. Beh, questa è la voce del cardinale O'Malley di Boston. Il cardinale era stato incaricato dal Papa di guidare un gruppo di studio che proponesse delle raccomandazioni, delle soluzioni per guardare oltre il problema gravissimo che c'è stato, soprattutto in America, ma anche in altre parti del mondo, del rapporto tra alcuni prelati e la pedofilia infantile, soprattutto sul fatto che alcuni dei vescovi hanno cercato di fare un cover-up. Bene, il rapporto è stato consegnato al Papa, 6 gruppi di lavoro con 3 aree principali hanno dato i risultati del loro lavoro e la notizia qual è? Che continueranno nel lavoro, intensificheranno l'ascolto delle vittime e si andrà avanti con l'impegno per la formazione di vescovi e di coloro responsabili nella Chiesa per cercare di chiarire le cose più urgenti. Ecco, questa notizia capita a cavallo di un'altra notizia, ne arrivo da Washington questa volta, cioè la notizia di un prelato che era addetto alla Nunziatura Apostolica a Washington e che però è stato scoperto con materiale pornografico infantile. Ecco, il prelato è stato rispedito a Roma, dove ci sarà poi un'inchiesta, ci sarà un processo. Voglio riferirvi però come il New York Times prende la notizia, perché dà un'interpretazione positiva degli sviluppi su cui si sta muovendo il Vaticano, si sta muovendo la Chiesa, perché il New York Times dice: "The announcement on Friday of the transfer", ecco, il trasferimento di questo prelato a Roma, "è visto da molti come un progresso". E poi un punto importante, dice, come molto importante, come un segno di progresso, è la conferenza che sarà ospitata dall'Università Pontificia Gregoriana a Roma per combattere gli abusi sessuali digitali dei bambini. Ecco, dunque vi do una notizia anticipata, cioè la notizia di un convegno che si terrà in Vaticano la settimana prossima in cui si discuterà proprio di questo. E ho con me ai microfoni di America 24 due dei personaggi chiave che hanno dato vita a questo convegno, e cioè padre Zöllner, che è il preside dell'Istituto di Psicologia della Gregoriana a Roma, è presidente del Centro per la Protezione dei Minori dell'Università ed è anche il presidente del comitato organizzatore di questo convegno che si terrà a Roma, vi dicevo, la settimana prossima a partire da martedì, e Ernesto Caffo, direttore scientifico della conferenza. Questo è un fatto importante perché si apre al mondo laico questa conferenza, che deve riconoscere le vittime come soggetto da ascoltare. Ernesto Caffo è stato ospite a questa trasmissione altre volte, fondatore del Telefono Azzurro, ordinario di psichiatria infantile all'Università di Modena. Ecco, saluto entrambi. Buongiorno padre Zöllner, buongiorno, mi sente? Buongiorno a lei. Buongiorno Ernesto Caffo, noi ci siamo sentiti in passato trattando di cose simili. Ecco, io comincerei con lei, padre Zöllner. Cosa pensa di quello che ha scritto il New York Times? Bene, si lavora da molti anni ormai per migliorare sia la politica degli interventi sia anche della prevenzione, specialmente negli Stati Uniti i vescovi e i religiosi fanno una politica molto rigorosa di prevenzione, però ovviamente dobbiamo fare molta attenzione a non cadere nell'illusione che questo sarà un tema che si può chiudere una volta per sempre. Rimane l'obbligo di continuare il lavoro con perseveranza e determinazione. Ecco, devo dire, Padre Zorn, tra l'altro, è da molti anni che si occupa del tema, ha scritto un libro nel 2010 addirittura, Chiesa e pedofilia, una ferita aperta. Ecco, Ernesto Caffo, ci dica qual è la sua reazione, perché lei è un esperto ovviamente di queste cose, la protezione del bambino, telefono azzurro, c'è questo rapporto tra l'altro forte che mi sembra si sia instaurato con la Chiesa, che guarda anche al mondo laico per cercare di trovare delle soluzioni. Il tema della violenza sessuale sui bambini è un tema universale, purtroppo in tutto il mondo i bambini sono vittime di violenza. Devo dire che la Chiesa in questi ultimi anni ha fatto una profonda riflessione su una storia che ha coinvolto tante comunità, e non soltanto quella cattolica, e devo dire che le conoscenze che emergono sia delle neuroscienze, sia della psicologia, della psichiatria, ma anche da altre scienze, quelle sociali, ci porta oggi ad affrontare problemi molto diversi, con una grande attenzione alla prevenzione, a un aiuto alle vittime, e d'altra parte anche un trattamento degli autori di questi comportamenti, che spesso sono giovani e spesso devono in qualche modo trovare una risposta. Credo che uno degli elementi chiave di questo percorso è l'ascolto. Ecco, Padre Zölder, purtroppo poi non abbiamo molto tempo, ma di questo forse continueremo a parlare domani. Quali sono le linee guida della conferenza di Roma in due parole? In due parole, e prendere visione dell'insieme delle varie scienze e dei vari ambiti in cui si tratta di combattere la pedofilia e specialmente il pericolo connesso all'abuso sessuale tramite l'internet. E questa è la particolarità di questo congresso: abbiamo persone dalla scienza psichiatrica, psicologica, dalla pedagogia, dalla sociologia, dalla politica, abbiamo la polizia e l'Interpol, abbiamo organizzazioni internazionali quali UNICEF, eccetera, che bene, tutti si interessano di questo tema, ma non parlano insieme normalmente, fanno i loro raduni separatamente. Noi vogliamo avere che questa sia la piattaforma affinché possano comunicarsi e trovare soluzioni per un internet più sicuro per le persone più vulnerabili, soprattutto per i bambini. Ecco, chiudiamo qui, poi continueremo la nostra conversazione nella puntata di domani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo sempre con me in linea Padre Zölner per avere un suggerimento di una canzone da proporre ai nostri ascoltatori. Padre Zölner. Beh, io penso che possiamo ritornare ai tempi della nostra giovinezza ascoltando Joan Baez con We Shall Overcome. We Shall Overcome. Direi che è una canzone anche molto propizia per i temi di cui stiamo parlando. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!